Ad alta voce. Chiara Guidi legge Memorie del sottosuolo di Fyodor Dostoevskij. Traduzione di Alfredo Polledro. Quattordicesima puntata. Avevo cominciato perfino a piangere, sebbene sapessi con perfetta esattezza in quel medesimo istante che tutto questo era tratto da Silvio e dalla mascherata di Lermontov. E a un tratto mi venne una tremenda vergogna, una vergogna che feci fermare il cavallo. Scesi dalla slitta e mi piantai nella neve in mezzo alla via. Il vetturino mi guardava con stupore, sospirando. Che cosa bisognava fare? Là non si poteva andare. Ne veniva fuori un assurdo, e lasciar stare non si poteva, perché allora poi ne sarebbe venuto fuori. Signore, com'era possibile lasciar stare? E dopo offese come quelle? No. Gridai precipitandomi di nuovo nella slitta. No, è una cosa predestinata, è il fato. Frusta, frusta laggiù. E nella impazienza diedi un pugno nel collo al vetturino. Ma che hai? Perché mi picchi? Gridò il contadinotto frustando però il ronzino, tanto che quello cominciò a scalciare con le zampe di dietro. La neve bagnata cadeva a fiocchi. Io mi ero scoperto. Non mi importava di nulla. Avevo dimenticato tutto il resto perché mi ero deciso definitivamente per lo schiaffo e sentivo con terrore che la cosa ormai sarebbe accaduta subito, infallibilmente adesso, e non poteva più essere fermata da nessuna forza. I lampioni solitari baluginavano tristemente nella foschia nevosa come torce in un funerale. La neve mi era entrata sotto il cappotto, sotto la giubba, sotto la cravatta, e lì si scioglieva. Io non mi coprivo tanto, tanto tutto era perduto lo stesso. Finalmente arrivammo. Saltai giù quasi fuori di me, corsi su per gli scalini e cominciai a bussare alla porta con le mani e coi piedi. Soprattutto le gambe ai ginocchi mi si indebolivano straordinariamente. Non so come. Mi aprirono presto, quasi sapessero del mio arrivo. Effettivamente Simonov aveva avvertito che forse ne sarebbe venuto ancora uno, e lì bisognava avvertire e in generale prendere delle precauzioni. Era uno di quei negozi di mode di allora che da un pezzo ormai sono stati sterminati dalla polizia. Di giorno era davvero un negozio, e di sera coloro che avevano una raccomandazione potevano venirci in visita. Entrai a passi rapidi, attraverso la bottega buia, nella sala a me ben nota, dove ardeva una sola candela, e mi fermai perplesso. Non c'era nessuno. «Dove sono?» domandai a qualcuno. Ma loro, si intende, avevano già fatto in tempo ad andarsene. Davanti a me stava una persona con un sorriso stupido, la padrona stessa, che un poco mi conosceva. Di lì a un minuto si aprì una porta ed entrò un'altra persona. Non facendo attenzione a nulla, camminavo per la stanza e forse parlavo fra me. Ero come salvato dalla morte e con tutto il mio essere lo presentivo gioiosamente. Perché avrei dato quello schiaffo? Senza fallo avrei dato quello schiaffo. Ma ora essi non c'erano. E tutto era scomparso. Tutto era cambiato. Mi guardavo intorno. Non riuscivo ancora a rendermi conto. Machinalmente gettai uno sguardo alla ragazza che era entrata. Mi apparve dinanzi un viso fresco, giovanile, un poco pallido, con delle scure sopracciglia diritte, con uno sguardo serio e come un po' meravigliato. Questo mi piacque subito. L'avrei presa in odio se avesse sorriso. Cominciai a guardarla più fissamente e come con sforzo. Non avevo ancora ben raccolto le idee. In quel viso c'era qualcosa di ingenuo e di buono, ma anche qualcosa di stranamente serio. Sono sicuro che per questa ragione lì ci scapitava. E nessuno di quegli imbecilli l'aveva notata. Del resto, non poteva dirsi una bellezza, sebbene fosse di alta statura, forte, ben fatta. Era vestita in modo straordinariamente semplice. Qualcosa di ignobile mi punse. Mi avvicinai senz'altro a lei. Per caso, mi guardai in uno specchio. Il mio viso sconvolto mi parve ripugnante all'estremo, pallido, maligno, volgare, coi capelli irti. Sia pure, ne sono contento, pensai. Sono contento appunto di sembrarle ripugnante. Questo mi fa piacere. Non so dove, dietro un tramezzo, come per effetto di qualche forte pressione, come se qualcuno lo soffocasse. Un orologio si mise a rantolare. Dopo un rantolio esageratamente lungo, seguì una suoneria esile, antipatica e in certo modo inaspettatamente fitta, quasi che qualcuno tutto un apparato fosse balzato in avanti. Suonarono le due. Mi riscossi. Sebbene non dormissi, ma giacessi soltanto in un semiassopimento. Nella camera stretta, stipata e bassa, tutta presa da un enorme armadio per i vestiti, ecco, sparsa di scatole di cartone, di cenci ed ogni sorta di roba di vestiario, era quasi del tutto buio. Un moccolo, acceso sulla tavola in fondo alla camera, si andava ormai spegnendo e mandava appena appena qualche sprazzo ogni tanto. Entro qualche minuto doveva avvenire un buio perfetto. Tornai in me rapidamente. Rammentai tutto di colpo. senza sforzi, subito, come se quelle cose mi avessero fatto la posta per avventarmisi di nuovo contro. E anche durante lo stesso assopimento mi era pur sempre rimasto continuamente nella memoria come un punto che non c'era verso di dimenticare e al quale andavano pesantemente le mie assonnate fantasticherie. Ma era strano. Tutto quello che mi era accaduto in quel giorno mi parve ora, dopo il risveglio, passato già da tanto tempo, come se già da tanto tempo fossi uscito da tutto ciò. Avevo la testa confusa. Era come se qualcosa si librasse su di me e mi sfiorasse, mi eccitasse e mi rendesse inquieto. L'ansietà e la bile ribollivano da capo e cercavano un'uscita. A un tratto, accanto a me, vidi due occhi aperti che mi esaminavano con curiosità e insistenza. Lo sguardo era freddamente impassibile, cupo, come del tutto estraneo, e mi dava un senso di pena. Un pensiero cupo germogliò nel mio cervello e mi fece passare per tutto il corpo una brutta sensazione, simile a quella che provi entrando in un sotterraneo umido e pieno di tanfo. Non sembrava naturale che proprio soltanto ora, a quei due occhi, fosse venuta l'idea di cominciare ad esaminarmi. Mi rammentai anche che in due ore non avevo scambiato nemmeno una parola con quell'essere e non l'avevo assolutamente ritenuto necessario. Prima questo poco, non so perché, mi era perfino piaciuto. Ora invece mi apparve tutta un tratto, con chiarezza, l'assurda idea, ripugnante come un ragno, della depravazione, che senza amore, volgarmente e svergognatamente, comincia senz'altro da quello che è il coronamento del vero amore. Ci guardammo a lungo così, ma lei non abbassava i suoi occhi davanti ai miei e non mutava il suo sguardo, tanto che alla fine non so perché cominciai a sentirmi spaventato. «Come ti chiami?» domandai bruscamente per finirla subito. «Lisa», rispose lei, quasi con un sussurro, ma in modo del tutto sgarbato, e distolse gli occhi da me. Io tacqui per un poco. «Oggi che tempo, nevica, è brutto», proferì quasi tra me, incrociando malinconicamente le mani dietro la testa e guardando il soffitto. E lei non rispondeva. Tutto questo era scandaloso. «Sei di qui?» domandai dopo un minuto, quasi con rabbia, volgendo lievemente la testa verso di lei. «No». «Di dove?» «Di Riga». «Sei tedesca?» «Sono russa». «Da molto sei qui?» «Dove?» «Nella casa». 15 giorni». Parlava sempre più bruscamente. La candela si era spenta del tutto. Non potevo più distinguere il suo viso. «Hai padre e madre?» «Sì». «No». «No, li ho». «Dove sono?» «Là». «A Riga». «E chi sono?» «Così». «Come così?» «E chi sono? Di che condizione?» «Borghesucci». «Hai vissuto sempre con loro?» «Sì». «Quanti anni hai?» 20. «Perché li hai lasciati così?» Questo così significava smettila, mi fai nausea. Tacemmo. Dio sa perché non me ne andavo. Anch'io sentivo sempre più nausea e più malinconia. Le immagini di tutta la giornata trascorsa, come da se stesse all'infuori della mia volontà, cominciarono a passarmi disordinatamente nella memoria. Tutto a un tratto mi ricordai di una scena che avevo visto al mattino, che avevo vista al mattino per via, quando trotterellavo preoccupato verso l'ufficio. Oggi trasportavano una cassa da morto e per poco non l'hanno fatta cadere. Dissi ad un tratto a voce alta, pur non desiderando affatto di attaccar discorso, ma così quasi impensatamente. Una cassa da morto? Sì, in via Sennaia la trasportavano fuori da una cantina. Da una cantina? Non da una cantina, ma da uno scantinato, là in basso. Da quella casa di malaffare, sai, c'era un tasso di ciume intorno, gusci. Immondizie, puzzava, era schifoso. Silenzio. È brutto oggi portare alla sepoltura qualcuno, ricominciai tanto per non tacere. Perché è brutto? C'è neve, umidità. Fa lo stesso, disse lei a un tratto. Dopo un po' di silenzio. No, è orribile. I becchini probabilmente bestemmiavano, perché la neve veniva dalla e la fossa probabilmente c'era l'acqua. Perché l'acqua nella fossa? Domandò lei con una certa curiosità, ma pronunciando le parole ancora più villanamente e più bruscamente di prima. Tutto a un tratto qualcosa cominciò a irritarmi. Ma sì, l'acqua sul fondo, per circa 2 palmi, qui al cimitero Volcavoi. Non si scava nemmeno una fossa che sia asciutta. Perché? Come perché? È un sito acquoso. Qui ci sono paludi dappertutto e così li mettono nell'acqua. L'ho visto io stesso molte volte. Nemmeno una volta l'avevo visto. E anche al cimitero Volcavoi non c'ero mai stato. Ma avevo soltanto sentito come lo raccontavano. Possibile che ti sia indifferente morire, dico. E perché dovrei morire? Rispose lei come se si difendesse. Un giorno o l'altro dovrai pur morire. E morirai esattamente come la morta di stamane. Era anche lei una ragazza. È morta Tisica. Una sgualdrina poteva morire all'ospedale. Lo sa già, pensai. E hai detto sgualdrina e non ragazza. Era in debito verso la padrona, replicai, eccitandomi sempre di più nella discussione, e la servì proprio fin quasi all'ultimo, sebbene fosse Tisica. Dei vetturini lì intorno parlavano con dei soldati e lo raccontavano. Probabilmente erano suoi antichi conoscenti. Ridevano. Si preparavano a ricordarla anche alla bettola. Anche qui aggiunsi molto del mio. Un silenzio, un profondo silenzio, e lei non si mosse nemmeno. E all'ospedale sarebbe forse meglio morire? Non è tutt'uno? Ma perché dovrei morire? Ella soggiunse con irritazione. E se non ora più in là? Beh, anche più in là. E come potrebbe essere altrimenti? Ecco, ora tu sei giovane, bella, fresca, e ti danno un certo valore. Ma dopo un anno di questa vita non sarai più così. Appassirai fra un anno. In ogni caso fra un anno avrai meno valore. Continuai con malignità. E passerai di qua in qualche altro posto meno buono, in un'altra casa. Dopo un altro anno, in una terza casa, sempre più in basso. E fra 7 anni arriverai alla cantina della via Sennaia. Questo andrebbe ancora bene, ma il guaio è se per di più ti verrà fuori qualche malattia. Beh, diciamo una debolezza di petto. Sia che tu prenda freddo da te o per qualcos'altro. In una vita come questa la malattia passa malamente. Si attacca magari così e non si stacca più. Ed ecco che muori. Vuol dire che morirò? Rispose lei. Rispose lei ormai proprio con ira e fece una rapida mossa. Eppure si prova rimpianto. Di chi? Rimpianto della vita. Un silenzio. Avevi un fidanzato? Che ve ne importa? Ma io non voglio cavarti fuori nulla. Non mi riguarda, perché ti arrabbi? Certo, avrai avuto i tuoi dispiaceri, io che c'entro. Ma così provo compassione. Di chi? Compassione di te. È inutile. Ella sussurrò appena percettibilmente si mosse di nuovo. Questo mi stizzì subito. Come? Io. Io ero così dolce con lei e lei... Ma tu che cosa pensi? Sei su una buona strada? Io non penso niente. Il male è appunto che non pensi. Torna in te. Torna in te finché c'è tempo. E il tempo c'è. Sei ancora giovane. Sei bella. Potresti innamorarti, prendere marito, essere felice. Non tutte quelle che hanno marito sono felici, ella disse recisamente con la villana precipitazione di prima. Non tutte, certamente. Ma pure è assai meglio che qui. Meglio senza confronti. E quando si ha l'amore si può vivere anche senza felicità. Anche nel dolore la vita è bella. È bello vivere al mondo. Comunque si viva. Ma qui, qui che c'è? All'infuori del fetore. Chiara Guidi ha letto Memorie del sottosuolo di Fiodor Dostoevskij, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce chiocciolarai.it. Per riascoltare il programma radio3pod.rai.it.